Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Appuntamento con l'Adico di Mestre, l'Associazione Difesa Consumatori, insieme a Carlo Garofolini, presidente, che è con noi al telefono. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, parliamo della questione mutui e finanziamenti, che poi c'è direi una notevole differenza, perché con i finanziamenti il tasso è sicuramente più alto rispetto a un mutuo, ma anche se ormai l'Euribor è decisamente basso, però si fa comunque fatica, se si perde il lavoro, se non si ha più l'introito che si aveva una volta, a pagare le rate. E qui entra lo sportello dell'Adico, proprio dedicato a questo, perché parliamo anche un po' di statistiche, di quello che è il quadro generale. Sì, come ha detto Francesco, c'è uno sportello all'Adico che si chiama Debiti e Crediti, che fornisce proprio consulenza a queste persone che si trovano nella condizione di non pagare più i mutui o le rate dei finanziamenti. È anche vero che, per riallacciarmi un po' alla tua introduzione, normalmente i finanziamenti si tendono sempre a fare quando le banche non ti erogano i mutui o quando gli importi richiesti non superano certi valori. Premesso questo, è vero che lui è basso, ma è vero che insomma le rate restano sempre alte, e con questa crisi ci sono moltissime famiglie che non riescono più a pagarlo. E in questo senso abbiamo notato come nel 2014 le persone seguite dallo sportello Debiti e Crediti dell'associazione sono state 109, per lo più da Venezia, Padova e Treviso, però rispetto al 2013 si è aumentati del 43%, che erano 76 casi. Quindi certamente un trend che denota come i mutamenti, i scenari economici non stanno aiutando le famiglie, ma quelle che sono in difficoltà continuano ad aumentare ogni giorno di più. Cosa riuscite a fare come sportello dell'Adico? Allora, innanzitutto abbiamo cercato anche di catalogare un pochino quelle che sono le casistiche, perché abbiamo notato che di queste persone il 70% dei casi in cui la rata è diventata insostenibile riguarda per lo più società finanziarie, che normalmente le persone, anche per effetto magari di un finanziamento riscontrato prima della crisi o anche per decesso di uno dei due coniugi o non solo per perdita del posto di lavoro, appunto questa rata non riesce più a diventare insostenibile. Oppure abbiamo questi mutui che, per gli stessi motivi, dopo aver cercato di sospendere per effetto della legge salva famiglia approvata ancora dal governo qualche tempo fa, le persone si vengono a noi proprio per salvaguardare i propri beni o perché non vedano pignorarsi la propria abitazione. Certamente le attività che si possono fare sono molteplici. Innanzitutto noi verifichiamo che non ci siano presenza di tassi di interesse di usura sui mutui richiesti, perché nel caso che riscontriamo il superamento di questi parametri che vanno definiti dalla Banca d'Italia, certamente allora in questo caso agiscono i nostri uffici legali e vanno subito a bloccare quelle che sono le rate, cercando anche di comprendere quanto pagato, se deve essere restituito o ritornato. Ma permesso questo, normalmente dobbiamo sempre ricordarci che esiste la surroga o la rinegoziazione per quanto riguarda i mutui, cioè cercare di rivedere quelle che sono delle condizioni pattuite inizialmente, adeguando quello che è la capacità di pagarla, modificandone magari la durata, e anche questo deve essere sempre un'attività gratuita. Mentre per quanto riguarda le finanziarie, nella maggior parte dei casi si studia con i nostri uffici quelli che sono dei piani di rientro più adeguati e sostenibili per le famiglie, sempre in virtù di quelli che sono dei corsi come Etanga, ma soprattutto Etaglia, che sono stati sottoscritti nei periodi di pre-crisi. Eh sì, ed è assolutamente importante avere qualcuno che ti sa consigliare per trovare magari una via d'uscita da una cosa che altrimenti ti porterebbe poi alla rovina, perché se ti trovi venduta la casa o cose di questo genere, poi sono guai ancora più grossi. E quindi è importante che ci siano servizi utili come questo. Grazie quindi all'Associazione Difesa Consumatori, e ricordo associazionedifesaconsumatori.it il sito. Grazie a Carlo Garofolini, alla prossima settimana. Grazie a Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori.